La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui dagli studi di Milano, la radio alle 16.31, primi 43 secondi. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio per l'ascolto e vi dice subito di che cosa parliamo in questa puntata, chiedendovi di telefonare all'800240024 o di dire la vostra al 349-238-6666 sul tema. Il tema è presto detto, avremo due ospiti per approfondirlo e illustrarvi insomma alcune opinioni che si sono radicate in un confronto di idee che i giornali hanno riportate. Si riferiscono a una misura, questa misura è stata compresa nella legge di stabilità su iniziativa parlamentare, quindi un emendamento che poi è stato inglobato nella legge di stabilità e che quindi diventa vigente dal 1° gennaio del 2016, ed è relativa a un punto che fa molto discutere, perché interviene su una delle fonti di conflittualità più radicata in caso di separazioni e divorzi. Questa però si riferisce in particolare alla separazione. E che cosa prevede questa norma? Prevede che in caso di inadempienza del coniuge al quale è stato previsto per la decisione all'atto della separazione di provvedere all'altro coniuge l'assegno di mantenimento, e in caso di comprovata impossibilità da parte del coniuge che deve dare l'assegno di mantenimento all'altro separato, ecco, in caso di inadempienza, allora il coniuge che non lo riceve, il coniuge separato che non lo riceve, può presentare un'istanza, una domanda al tribunale del luogo di residenza chiedendo l'anticipazione della somma a carico dello Stato, e a questo fine è stato acceso nel bilancio dello Stato un fondo rivolto proprio a questo fine, cioè l'anticipazione di somme, di assegni di mantenimento per coniuge separato in caso di inadempienza per mancanza di risorse da parte del coniuge che deve versarlo all'altro, un fondo che allo stato attuale è poco più di una promessa, per così dire, perché la dotazione in tutto per il 2016 è di 250.000 euro e quella per il 2017 è di 500.000 euro. Quindi, rispetto a un fenomeno così diffuso nella società italiana, stiamo parlando di pochi spiccioli. Però è l'idea, cioè l'idea che lo Stato provveda ad anticipare. Poi lo Stato a quel punto, per recuperare le somme erogate ma a titolo di anticipazione, lo Stato attraverso il Ministero della Giustizia si deve occupare di rivalersi direttamente sul coniuge inadempiente, quindi accertare quando e se tornasse nella titolarità di redditi adeguati al versamento, a quel punto non solo dell'assegno ma anche a ridare allo Stato quello che lo Stato ha anticipato. Allora, la domanda è semplice: siete favorevoli a questo sistema? Ritenete che lo Stato si debba far carico anche di inadempienza di obbligazioni tra privati? Perché io capisco che lo Stato riservi dei trattamenti nella maniera più ampia possibile a fini di politiche sociali verso chi ha basso reddito, verso chi ha perso il lavoro, gli ammortizzatori sociali, tutto quello che si vuole. Ma qui stiamo parlando di inadempienza di obblighi tra privati a seguito del modificarsi del rapporto intrapreso e sancito nel matrimonio e sfociato poi in una separazione. Davvero lo Stato deve fare anche questo? Prima domanda, alla quale vorrei una vostra risposta. Secondo, ritenete forse che un meccanismo di questo tipo possa, come devo dire, spingere, indurre il coniuge che deve dare l'assegno a venir meno al suo obbligo dicendo boh, tanto ci pensa lo Stato, magari vado un po' di tasse, me le tengo per me, non risultano ufficialmente, ma tanto ho la coscienza apposta perché lo Stato, cioè il contribuente, li dà a mia moglie o a mio marito. Oppure invece siete convinti che lo Stato debba fare tutto questo, correndo anche questo rischio, eccetera, eccetera? Allora, di questa misura si tratta. Poiché negli ultimi anni chiunque faccia il nostro mestiere è letteralmente, non dico subissato perché sembrerebbe un giudizio di merito negativo, però a noi arrivano costantemente pacchi di lettere e mail proprio motivati dalle condizioni di sofferenza e conflitto che si determinano tra coppie separate. Da una parte ci sono i coniugi tra virgolette deboli che lamentano le inadempienze del coniuge a cui spetterebbe l'assegno di mantenimento e il sottrarsi da parte dell'altro coniuge con questo o quella scusa all'obbligo. Dall'altra però ci sono pacchi altrettanto elevati, se non talvolta più elevati, di coniugi, regolarmente quasi sempre si tratta di padri, a dire la verità, separati, che lamentano come la giurisprudenza sia, non dico unilateralmente, ma maggioritariamente orientata a favore della moglie, del coniuge femminile, tanto per l'affido dei figli quanto per il mantenimento, l'assegno del mantenimento e così via. Cosa che insomma ha determinato una delle ragioni di fondo del conflitto tra separati in questi ultimi anni, le denunce dei padri separati contro questa situazione, padri separati che spesso hanno perso il lavoro negli anni di crisi, si sono trovati in crescente difficoltà, non hanno più saputo argomentare se non col fatto non ce la faccio più, al fatto di non poter ottemperare i loro obblighi, e si sono visti a quel punto coperti di ulteriori sanzioni, limitazioni nell'accesso agli eventuali figli e così via, non si contano. Allora, questa è la condizione e questo è il provvedimento. Cerchiamo di capire almeno un paio di punti di vista diversi per, in relazione a questa norma, e a che cosa può voler dire per il futuro. Serve a tutelare entrambi i coniugi separati, oppure la parte debole, oppure una scusa per la parte forte? Allora, per parlarne, mentre aspettiamo le vostre telefonate per dirci come la vedete voi, abbiamo due ospiti. Da una parte c'è il presidente dell'associazione Avvocati Matrimonialisti, Gian Ettore Gassani. Grazie di aver accettato il nostro invito di essere qui con noi, presidente. Buonasera, buonasera a voi. E il presidente dell'associazione, appunto, Padri Separati. Se ne volete sapere di più, andate a cercare il sito www.padri.it, che da anni insomma si occupa della rappresentanza e della sensibilizzazione su questi temi. E notizia, il presidente dell'associazione Padri Separati però è una signora, Tiziana Franchi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Scusi, però io una domanda gliela devo fare, ma perché il presidente dell'associazione Padri Separati è una donna? L'associazione Padri Separati è nata 24 anni fa, io collaboro con l'associazione da 20 anni e sono da 6 anni presidente dell'associazione, perché il Consiglio nazionale mi ha eletto vedendo quello che ho fatto in 20 anni. Sì, e la seconda domanda, poi entriamo nel merito, lei è convinta che ci sia un orientamento? Il problema è che dall'esterno può sembrare che ci sia una guerra di genere, ma non è così. I problemi restano fissi, ci sono, però vengono distorti e un po' anche dalla visione che si dà del problema. Viene passato anche già dall'articolo quell'esercito di padri separati che non pagano il mantenimento. Esatto. È come se fosse uno sport, cioè il padre non paga. Io parlo da quello che vedo da 20 anni, da padri che vengono in associazione perché sono padri che vogliono occuparsi dei propri figli e vogliono ovviamente mantenere i propri figli. Qui adesso c'è un problema generalizzato che insomma questi padri perdono il lavoro, vanno in cassa integrazione e nella rottura familiare le spese diventano doppie e il padre viene anche espropriato dell'unico bene che ha, che magari è la casa. Sembra una sciocchezza, ma questo va a incidere comunque, perché si deve pagare comunque il mutuo continuamente, anche se lui esce di casa, deve pagarsi un affitto da un'altra parte, deve pagare l'assegno di mantenimento. E quindi non ci sono effettivamente i soldi, quindi anche per il ceto medio che fino a 10 anni fa poteva permettersi una separazione più o meno decente, adesso non è più così e quindi sono nati nuovi poveri, questa è la realtà, è un dato di fatto, è per quello che stiamo cercando di aprire case per padri separati, perché c'è questo problema. Allora, tanto per dare un'idea a chi non ce l'ha quantitativamente, è un fenomeno sociale rilevante, tanto che su oltre 2 milioni di separati, divorziati, rovinati per così dire, su oltre 2 milioni, 500.000 si stima che siano dovuti tornare a casa dei loro genitori, quindi stiamo parlando di un fenomeno che c'è come nella società italiana. Allora, prima di tornare alla presidente dell'Associazione Padri Separati, sentiamo il presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti. Gassani, secondo lei questa misura A è positiva e giustificata, B che effetti avrà? Ma io parto presupposto che la vicenda dei padri separati è un dramma nazionale, quindi su questo non c'è dubbio. Ritengo che il fondo, l'istituzione di questo fondo in questo momento è un'istituzione simbolica, visto e considerato che soltanto 250.000 euro sono garantiti, ma non credo che possa creare delle divisioni anche questo, cioè quando si tratta di stabilire se è una misura contro o a favore di qualcuno, si tratta di un salvadanaio che lo Stato vuole mettere da parte nei casi di assoluta indigenza e difficoltà, per cui non credo che sia un attacco alla paternità o alla maternità o qualcuno, ma è semplicemente un fondo. Quello che succede in Francia, a San Marino, che succede in Sud Tirolo e in tantissimi altri paesi al mondo. Cioè, quando c'è una situazione familiare compromessa da povertà, da miseria, da sopravvivenza, ci sono bambini che lo Stato voglia dare una mano e quindi anticipare questi soldi, o forse anche perderli, perché molti padri non è che non li pagano gli assegni per cattiveria o per dispetto, non li pagano perché è tutto un cortocircuito che si è creato dal punto di vista economico nel nostro paese. Per cui, al di là delle battaglie dei padri separati, che secondo me in questo momento non hanno alcuna ragione di esistere, perché io credo che non c'entri niente adesso, la tragedia loro è una tragedia seria, tutti se ne dovremmo occupare, è giusto anche non storcere il naso quando vengono investiti dei soldi per costruire le case dei padri separati. Non vedo per quale motivo si possa fare questo per garantire ai figli di sopravvivere. Credo che la giurisprudenza debba cambiare e quindi magari evitare che ci siano delle rendite parassitarie, ma sul fondo quando lei parla, aspetti, mi faccia capire chi ne ascolta, quando lei parla di rendite parassitarie cosa intende? Ma guardi, io le dico, a volte ci sono dei provvedimenti giurisdizionali che non mi convincono, ci sono a volte degli assegni onestamente sproporzionati. Se un uomo che guadagna 1.500 euro e vai a togliere 900.000 euro a Milano o a Roma, tu l'hai ucciso. Esatto. Per cui è chiaro che non possiamo pensare che la tutela dei diritti delle coniugi più deboli dei figli significhi il sacrificio dell'altro. Quando si crea questo cortocircuito si creano delle ingiustizie sociali e ne vediamo tante, soprattutto in due città, Roma e Milano, dove ci sono padri che dormono in auto, che si lavorano la prima fontana utile e che vivono in un dramma terribile per tutti, perché quando un uomo toglie la via d'uscita gli è tolto tutto. A dire la verità, all'inizio dell'anno noi abbiamo avuto, tra poco sarà un anno, proprio la Corte Costituzionale aveva assunto una sentenza chiamata a pronunciarsi proprio sul concetto in base al quale il giudice deve definire l'assegno di mantenimento, cioè il tenore di vita precedente, e la Corte di Costituzionale aveva confermato anche precedenti sentenze della Cassazione affermando che il tenore di vita non è in realtà l'unico parametro per calcolare l'assegno. Però mi sbaglio, Gassani, oppure poi i giudici di merito continuano a guardare soprattutto a quello come criterio? Guarda, il problema di fondo del nostro paese è che noi non abbiamo una magistratura specializzata, salvo a Milano, Torino e Roma, dove ci sono le sezioni specializzate. Abbiamo una grande magistratura di grande buona volontà, ma non abbiamo il concetto di specializzazione. Ergo, vediamo che ogni tribunale, ogni realtà giudiziaria adotta dei criteri personalizzati sul calcolo dell'assegno. Questo evviva. È inconcepibile in uno evviva. Stato di diritto, è inconcepibile. Per cui, se io difendo un padre a Palermo, sicuramente avrò un trattamento diverso che rispetto a se lo difendo a Napoli, a Roma o a Milano. Non ne esiste ancora una giurisprudenza univoca neanche per il calcolo dell'assegno di mantenimento. Per quanto riguarda il mantenimento dello stesso tenore di vita, mi pare che la giurisprudenza, soprattutto la Suprema Corte di Cassazione, abbia già superato la questione. Non è possibile pensare al mantenimento esatto del tenore di vita quando la famiglia si disgrega, perché è evidente che le risorse si sparpagliano. Ovviamente stiamo parlando, noi non dobbiamo fare confusione tra le separazioni dei ricchi, dei VIP, di gente che ha dei... No, parliamo della gente comune. Con il 90% delle separazioni, che sono i cosiddetti milleuristi che vanno in tribunale, sono separazioni drammatiche, perché chiaramente ci troviamo con una moglie che guadagna 1.000 euro, un marito 1.300, là c'è poco da fare. E credo che... Classicamente un mutuo acceso che resta a carico anche quello di chi poi deve fare pagare l'assegno, eccetera, eccetera. Voglio dire però una cosa molto importante, sì, proprio da questo giornalistico. Non so se, 30 anni fa In Italia il 60% delle mogli aveva otteneva l'assegno di mantenimento, come se fosse fatto automatico, sì. un provvedimento di genere. Adesso non è più così. Adesso diciamo che la ricreazione è finita, soltanto nel 17% dei casi le donne ricevono l'assegno, perché la giurisprudenza in questo è stata molto più severa rispetto al passato. Però dall'altra parte c'è il fallimento anche dell'affido condiviso, perché noi siamo passati da una situazione nella quale prima della legge sull'affido condiviso l'84-85% dei figli affidati andavano alle madri, però la realtà è che adesso che l'affido condiviso è quasi il 90% dei casi, quando c'è una la prole comunque oltre il 90% poi viene comunque collocata dalle madri collocatarie, cioè quelli con cui finiscono per vivere i figli nei casi di affido condiviso, cioè mi pare che lì non ha funzionato la legge. L'affidamento condiviso in Italia non esiste, se vogliamo parlare in termini sostanziali, e sostanziali, perché se tu consenti a un padre di vedere il figlio due pomeriggi a settimana o weekend alternati e non dai il senso della sacralità dell'altro genitore, è lo stesso figlio che ti rimuove. Chiari. Ti vede un genitore di allora lei dice comunque positivo, ma problemi ce ne sono tanti, come vediamo. Torniamo dopo un minuto di informazione stradale e sentiamo l'opinione della presidente dell'associazione Padri Separati. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questa norma, iniziativa parlamentare, la parlamentare era del PD, assunta comunque anche dal governo, quindi compresa nella legge di stabilità, per la quale dall'inizio di gennaio lo Stato può anticipare il pagamento al coniuge separato in caso di inadempienza dall'altro coniuge che deve versargli l'assegno di mantenimento, e poi lo Stato si rivarrà sul coniuge inadempiente. Allora, alcune opinioni di quelle che ci avete mandato con SMS e poi passiamo anche alle telefonate. Dice per esempio Carmine: secondo me lo Stato non deve pagare l'assegno del coniuge, è un problema della coppia. Un altro ascoltatore: quindi coppia separata, lui senza denari, lei diventa creditrice dello Stato mentre lui diventa debitore? Terribile, non riesco a convincermi. Un terzo parla come contribuente e dice: ma noi contribuenti siamo già vessati, in nome di cosa dovremmo farci carico anche dell'onore di divertenze tra privati? Allora, questa è l'opinione di alcuni SMS. E sentiamo la presidente dell'associazione Padri Separati. Voi che pensate come associazione di questa misura del governo? Io penso che, a prescindere che la cifra è irrisoria, perché se vogliamo vedere poi quanta gente si rivolgerà, magari si parla di 50-100 euro a persona. Quindi io non sto neanche a sindacare sulla cifra. Ma il problema è un altro, che loro dicono... tu fai la domanda, e sicuramente la domanda, visto che nel 90% dei casi la donna è la collocataria dei figli, quindi sarà lei a fare questa domanda, sì. E la persona che non paga sarà ovviamente identificata come il padre, si rivolgerà poi lo Stato per il risarcimento al padre, quindi ci troviamo una persona che è già in difficoltà economica, che deve pagarsi un avvocato per potersi difendere e anche portare le prove che lui non aveva effettivamente questa cifra da poter pagare, se no l'avrebbe pagata. Qual è quello che non paga se può pagare? A prescindere che possiamo dire anche che ci può essere qualche padre che si è comportato così, ma se già adesso viene fatta la richiesta e viene fatta una visura anche tramite l'intendenza di finanza, e quindi già ti prendono e ti bloccano l'assegno di mantenimento per i figli, perché ormai sono quelli gli assegni di mantenimento per i figli, viene decurtato direttamente dallo stipendio. Quindi anche questa procedura qui si farà carico poi i tribunali ancora di più di altre cause che sommate a quelle che già ci sono adesso si intasano i tribunali, perché poi deve essere fatta la verifica se effettivamente non gli viene data questa cifra e questo segno di mantenimento. Quindi è una verifica nella verifica, quando c'è già stata una sentenza di un giudice che l'ha già predisposta. E poi perché andare a fare e mettere in moto un altro organo quando ci sono già i servizi sociali? Perché non aiutano prima i servizi sociali? Poi quante persone non si rivolgono ovviamente perché hanno anche paura, perché al giorno d'oggi qual è il bambino in Italia che muore di fame? Non esiste. Voglio dire, basta rivolgersi, adesso c'è il banco alimentare, ci sono tante situazioni dove le persone si rivolgono per essere aiutate, la parrocchia, la Caritas e chi più ne ha più ne metta, voglio dire. Perché andare a muovere un altro organo che comunque c'è necessità di pagare un avvocato, un legale per difendersi e far dimostrare che effettivamente io non ho la capacità di pagare questo assegno? Anche non perché è possibile, perché questi padri poi non hanno da che difendersi. Anche perché noi il decreto attuativo ancora non lo abbiamo, però prevedo che c'è proprio scritto, io me lo sono detto bene, c'è scritto nella norma, poi lo Stato si rivarrà. Questo è scritto, in che forme dipende dal decreto attuativo, perché bisogna vedere, per esempio, lo Stato a un certo punto scatenerà, comunque metterà in atto Agenzia delle Entrate ed Equitalia, eccetera, cosa che continuiamo a continuare a aumentare il debito. Io ho padri, schiere di padri che hanno fatto prestiti e continuano per pagare Equitalia, per pagare prestiti per aver mantenuto un ritmo che non potevano permettere. Quindi lei ha... c'è anche la distorsione iniziale di firmare delle consensuali che consensuali non sono, e poi si trovano dopo pochi mesi senza valutare bene che non ci sia il ritmo. Esatto. Allora, qui, come vedete, dall'Associazione dei Padri Separati prevalgono larghissimamente le critiche, le obiezioni sulle complicazioni e il rischio ulteriore di aggravare la condizione del coniuge debole che non è in grado di pagare l'assegno di mantenimento dei figli. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Riccardo da Catania, per esempio. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Guardi, io vivo delle situazioni, essendo consulente di diverse aziende, quindi vedo insomma la situazione dei dipendenti che sono separati. Allora, le dico solo un caso che si ripete tantissime volte, sì, perché dica. Sono tante le situazioni. Allora, una persona che è operaio specializzato guadagna un po' più di 2.000 euro, dopodiché ne dà 700 per l'assegno di mantenimento e paga il mutuo. Allora, sopravvive grazie alla ditta che gli fa un'anticipazione ogni mese e diciamo un poco ai compagni di lavoro. Sono delle situazioni insomma mortificanti per la vita umana. Dopodiché questa proposta ha del buono, perché le cifre poi sono ridicole, però evidentemente se poi si deve tradurre questo in un ulteriore aggravio con Equitalia e via dicendo, il rischio è molto forte, cioè lo Stato non ci ha abituato a procedure snelle, per così dire, è capace di discriminare davvero, non riescono a discriminare lo stato vero del contribuente, figuriamoci un inadempiente rispetto a una sentenza del giudice. Questa è la mia preoccupazione, però può essere, voglio sperare una volta di essere smentito, ma scommetterei sul contrario. Enrico da Modena, come la pensa Enrico? Sì, salve. Salve. Dunque, per me è una manovra ridicola sostanzialmente, per un semplice motivo, perché si va a intersecare una situazione di miseria sociale incredibile, nel senso che intanto la cifra messa a disposizione è veramente, come avete già notato voi, assolutamente ridicola. Questa è la prima cosa. E poi voglio dire, fondamentalmente una persona quando si deve sposare deve fare una cosa, deve sapere a cosa va incontro, perché se io guadagno 1.500 euro al mese, mia moglie non lavora perché in teoria deve stare dietro ai bimbi, devo pur prevedere, se ho anche un mutuo che è una cifra che mi porterà avanti magari 15-20 anni, che può capitare quello che nessuno vorrebbe, ossia un divorzio. Allora a quel punto lì, qual è la prospettiva? La prospettiva è di diventare un miserabile io e mia moglie di diventare una belva canita che... casa con i 200-300 euro. Beh, Enrico, io sposo il suo punto di vista, però io sono un liberale individualista. Bisogna sapere che io sono minoranza assoluta e si renderà conto anche lei di vivere in un contesto sociale in cui invece prevale l'opinione che lo Stato deve essere anche paternalista quando serve, cioè deve assumere su di sé l'onere di garanzia di chi non è in grado di farsi questi bene conti ed espone dei soggetti deboli, classicamente dei figli. Io su questo ho delle obiezioni, perché penso che più si estende il paternalismo di Stato con i soldi dei contribuenti, più si istiga alla fine l'irresponsabilità. Ma questa è una mia opinione, so di essere minoritario in questo, perché poi si viene confusi con dei darwinisti sociali che dici certo tu te ne fotti dei deboli. No, io non sono di questa idea, però questo fondo a me non convince per una questione di fondo, di principio, e capisco però che stiamo parlando di un dramma vero, che vedo il rischio di aggravare ulteriormente la condizione di chi è soggetto debole che non riesce a pagare. Questo è quello che penso io. Manuela da Frosinone, una signora, la sua opinione qual è? Guardi, la mia opinione è questa. Io sono una persona di 64 anni. E mi sente? Sì, la sentiamo benissimo. Ecco, e sono stata separata per 25 anni, poi mio marito è morto e è cessata questa cosa. Però voglio dire, io le posso dire per la mia esperienza che io ho tantissime amiche che si sono separate negli stessi anni in cui mi sono separata io, sì. E che in pratica, cioè, si sono rifatte una famiglia, ma se la sono rifatta in modo che percepiscono comunque l'assegno del marito separato. Quindi, e questo le posso dire, è una cosa molto diffusa, tipo tante persone che per prendere la reversibilità del marito morto non fanno risultare i matrimoni che invece... Addirittura. E continuano lei, a lei parla di false pensioni di reversibilità pure. Ma false nel senso che pur essendosi ricostruite una vita... e hanno un altro uomo che le mantiene. Quindi lei dice questo meccanismo in realtà incentiva alla furbizia. Allora io ringrazio anche Manuela della sua opinione. Come capirete, se continuerà a discutere di questa questione, soprattutto vedremo il decreto attuativo, vedremo come verrà attuato e vedremo come reagisce la società italiana. Grazie ai nostri due ospiti, continuate sulla 24, appuntamento come domani mattina alle 8:15. Attenti a noi due, che però anche domani mattina è solo con me. Andate avanti.